Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia, perché la pandemia ha comportato un costo umano devastante, ha messo a dura prova le nostre abitudini. Questo sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi. Buona serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di Radio 24. Lo avete sentito, il Premier Conte in questo augurio di Natale. Intanto sono stati diffusi i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Complessivamente, dice l'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza in Italia rimane ancora molto elevata. L'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del paese. Si raccomanda di stare a casa, preoccupa il Veneto, dicono, e 5 regioni sono a rischio. Vacanze quindi costrette a casa, ma si potrà viaggiare guardando film, serie in streaming. Vi daremo dei consigli su questo e anche su come comportarsi durante la cena di Natale quando si hanno ad esempio due invitati o per incontrarsi in sicurezza. Avremo un esperto per parlarne. C'è anche chi non si può permettere il cenone di Natale, neppure una cena di Natale, chi vive per strada in difficoltà. Andremo a Milano dall'associazione Pane Quotidiano e poi parleremo di trasporti e consegna dei pacchi. Mai come quest'anno gli italiani hanno utilizzato le consegne a domicilio e quindi i dati, i ritardi, le ricadute sull'ambiente. Infine il campionato di calcio. I numeri per mandarci dei messaggi sono 349-238-6666, ma ora le principali notizie della giornata. Contagi e tasso di positività stabili, superate le 70.000 vittime. Gran Bretagna meno isolata, ma a Dover scatta la protesta degli autotrasportatori. La scuola riapre il 7 gennaio, l'annuncio della ministra Azzolina. Calcio, quattordicesima di Serie A, Verona-Inter 1-2 in campo Milan-Lazio e Napoli-Torino. La frenata del contagio da coronavirus è sempre meno evidente. È modesta la riduzione dell'incremento percentuale dei casi totali ed è lieve la flessione dei nuovi casi settimanali. Questo è il quadro che emerge dal monitoraggio sui dati settimanali della Fondazione Gimbe, che tra l'altro sentiremo in diretta tra poco. Nelle ultime 24 ore è pressoché stabile il rapporto tra tamponi e positivi. Più positivi con più tamponi nelle ultime 24 ore in Italia, tasso di positività pressoché stabile all'8,3%. 14.522 i tamponi risultati positivi a fronte di oltre 175.000 test effettuati. Scendono a 553 i nuovi decessi, che portano a superare la soglia delle 70.000 vittime da febbraio. Diminuiscono i pazienti sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Il Veneto resta la regione più colpita, ma secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, sulla settimana che arriva al 22 dicembre, in 6 regioni, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna e Val d'Aosta, i casi sono tornati ad aumentare, segno che gli effetti delle misure restrittive adottate si stanno esaurendo. Un caso della cosiddetta variante inglese, intanto, è stato rilevato a Loreto, nelle Marche, in una persona sottoposta a tampone che non risulta aver avuto contatti diretti o indiretti con il Regno Unito. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La nuova variante inglese sembra sempre essere più contagiosa ed essere più facilmente trasmissibile nei bambini e nei ragazzi. In Gran Bretagna è caos per le partenze, a Dover migliaia di tir incolonnati. La riapertura del traffico merci a Dover non placa gli animi degli autisti dei tir bloccati da 3 giorni oltre Manica. La necessità di sottoporsi al tampone e risultare negativi ha provocato un ulteriore ritardo nel flusso di uscita, cominciato solo nel pomeriggio. La mancanza di informazioni precise e il timore di non trovare tamponi ha provocato tafferulli nel parcheggio di Manston nel Kent, base aerea trasformata in area di sosta temporanea per quasi 4.000 tir. Gli autisti, esasperati da giorni di incertezza e senza accesso ai servizi essenziali, parziali, si sono scontrati con le forze dell'ordine. La verità è che difficilmente tutti i tir potranno tornare sul continente entro Natale con una coda del genere. Questo mentre nel Regno Unito risale leggermente l'indice di infezione e, come annunciato dal ministro della Sanità Hancock, nuove aree dell'Inghilterra si preparano a entrare nel lockdown più rigido del Tier 4. Potrebbe invece andare verso una soluzione positiva il caso delle migliaia di italiani ancora bloccati in Gran Bretagna, dopo che il ministro degli esteri Di Maio ha firmato l'ordinanza che permette il rientro dei nostri connazionali per condizioni di urgenza e criticità, previsto il tampone prima della partenza e all'arrivo più una quarantena obbligatoria di 2 settimane. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute che consente di riprendere i voli dal Regno Unito, Alitalia comunica di aver riattivato da domani 24 dicembre il collegamento quotidiano Roma-Londra-Roma. Una ulteriore variante del Covid-19 è stata individuata nel Regno Unito. Lo rende noto il ministro britannico della salute Hancock, che riferisce di 2 casi tracciati al momento. La variante è apparentemente legata al Sudafrica e dunque il governo britannico ha disposto restrizioni immediate per gli arrivi dal paese. Una volta giunta all'ospedale Spallanzani di Roma, una parte delle 9.750 dosi dei vaccini Pfizer sarà trasportata a Pratica di Mare, dove 5 aerei raggiungeranno le mete più lontane. È quanto predisposto dal Ministero della Difesa in vista del giorno del vaccino del 27 dicembre. I restanti vaccini raggiungeranno le destinazioni via terra con un impegno complessivo di 60 autoveicoli e circa 250 militari. Sono 9.750 le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech destinate all'Italia e potrebbero arrivare all'Istituto Spallanzani di Roma già il 25 dicembre dal sito produttivo belga. Ma se anche ritardassero sarà solo di qualche ora, perché il 27 dicembre è previsto l'avvio delle vaccinazioni in concomitanza con gli altri paesi europei. Da Roma, dove verranno suddivise, le dosi saranno trasportate nei centri regionali da mezzi militari affinché tutti siano pronti entro le 7 del mattino del V-Day, il Vaccino Day. Durante i trasporti, sorveglianze e cautele saranno al massimo grado per scongiurare tentativi di furto che non possono escludersi, ma anche perché il vaccino viene conservato a una temperatura di 75 gradi sotto zero. Simbolicamente le prime vaccinazioni saranno effettuate su alcuni operatori dello Spallanzani, quindi si passerà a medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Studentesse e studenti delle scuole secondarie finalmente potranno tornare a scuola. Ce lo avevano chiesto, è giusto che possano farlo grazie all'impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Lo ha scritto in un tweet la ministra per l'istruzione Lucia Azzolina relativamente al ritorno nelle classi degli studenti delle superiori dal 7 gennaio. Precedentemente il presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, Antonio De Caro, al termine della riunione con il governo, le regioni, le province e i comuni, aveva confermato la riapertura delle scuole il 7. Sul fronte politico la discussione ruota attorno al recovery plan. Il presidente del Consiglio ha detto che il piano deve confermare la credibilità del paese, altrimenti il governo andrà a casa con ignominia. Nel frattempo, oggi l'aula della Camera ha confermato la fiducia all'esecutivo sulla manovra. La Camera ha detto sì alla fiducia posta dal governo sulla manovra, una richiesta arrivata dopo il maxi emendamento passato in commissione bilancio e i rilievi della ragioneria su diverse correzioni prive di copertura o da modificare. Presenti 546, votanti 544, astenuti 2, maggioranza. La fiducia è passata con 314 sì. Il voto finale dell'aula della Camera è ora atteso per il 27 dicembre. Poi la manovra da approvare entro fine anno passerà all'esame del Senato. Incassata la fiducia, Conte intanto torna a parlare del recovery fund che agita la maggioranza. La bozza del piano, dice, va approvata entro fine anno, si è a rischio ritardi e la task force immaginata dal governo per gestire il piano, criticata da Italia Viva perché accentratrice, non è mai esistita, rassicura Conte. L'Europa chiede una struttura di monitoraggio e, spiega, serve a gestire migliaia di progetti. Sarà una struttura di missione, aggiunge il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, sarà fatta per decreto e ci sarà un confronto. E sulla sanità, giudicata da Italia Viva la cenerentola della lista dei progetti con soli 9 miliardi degli oltre 200 del recovery fund, ci sono in realtà più di 15 miliardi di partenza, puntualizza Conte, tutto grazie ai progetti trasversali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora scontro tra sindacati e azienda sul piano per la nuova Alitalia. Insoddisfacente. Con questo aggettivo i sindacati bollano il piano industriale della nuova Alitalia ITA. Chiediamo un confronto con governo e Parlamento per discuterlo e presentare le nostre proposte di miglioramento, tuonano FilCGL, FilCIS, UIL Trasporti e UGLTA. Per mesi il governo ci ha assicurato che l'Italia sarebbe stata rilanciata come un player di livello internazionale, affermano, e invece ci troviamo davanti ad uno schema che la dimezza. La nuova Alitalia ITA, che dovrebbe essere pronta per i decolli nell'aprile 2021, prevede infatti di farlo con un organico ridotto pari circa alla metà dei dipendenti attuali. Ai sindacati ha risposto in TV a Sky TG24 la ministra dei trasporti Paola De Micheli, sentiamola. Oggi Alitalia è in amministrazione straordinaria dopo una gestione privata. Oggi ITA, che è 100% pubblica, ha un piano industriale solido. È stato approvato, adesso passerà al vaglio delle Camere e soprattutto dovrà affrontare lo scoglio della Commissione Europea, che dovrà certificare la discontinuità con il passato. La discontinuità è il fatto di concentrarsi a non fare tutti gli errori che sono stati fatti prima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia appena battuta dall'agenzia: il generale Teo Luzzi è il nuovo comandante generale dei Carabinieri, è stato nominato poco fa dal Consiglio dei Ministri. Chico Forti tornerà in Italia, l'ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Governatore della Florida ha accolto l'istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Forti è in carcere da 20 anni, accusato di omicidio, si è sempre proclamato innocente. Kan Dündar, ex caporedattore del quotidiano turco Cumhuriyet, è stato condannato a oltre 27 anni di carcere per spionaggio. Aveva denunciato il traffico di armi di Ankara in Siria. Era finito sotto accusa per la storia di un carico d'armi intercettato al confine siriano che il giornalista sosteneva fosse destinato ai ribelli. Nello specifico, Dündar è stato condannato a 18 anni e 9 mesi per rivelazione di informazioni riservate a scopo di spionaggio e anche a 8 anni e 9 mesi per il sostegno all'organizzazione terroristica del magnate e imam Fethullah Gülen, che Ankara accusa del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016. All'epoca dello scoop sul tir carico d'armi dei servizi segreti verso la Siria, il presidente Tayyip Erdogan minacciò il giornalista, gli disse che avrebbe pagato un caro prezzo. Kan Dündar fuggì poi in Germania alla vigilia del putsch del 2016 ed è da tempo destinatario di un mandato d'arresto della Turchia, che ne ha chiesto l'estradizione a Berlino. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E noi andiamo al calcio. In campo la Serie A per la 14ª giornata di campionato, ultimo appuntamento del 2020, con le milanesi protagoniste, in diretta Dario Ricci. Eccoci qua Valentina, davvero una giornata interessantissima questa che chiude appunto il 2020, la 14ª. Alle 18.30 l'Inter ha vinto a Verona per 2-1, tutto nella ripresa, i gol col vantaggio nell'azzurro di Martinez, il pareggio veronese di Ilicic che ha sfruttato un errore, un pasticcio tra il portiere Handanovic e Skriniar che pochi istanti dopo però di testa ha siglato il gol del 2-1, quindi Inter momentanea capolista, ma posto che si sta riprendendo il Milan, che a San Siro intorno alla mezz'ora, siamo al 29esimo per l'esattezza, è in vantaggio per 2-1 sulla Lazio, partenza sprint, ormai ci ha abituato il Milan dopo il gol lampo di Leao col Sassuolo. Anche in questo caso al 10° minuto il vantaggio di Rebic, al 17esimo il raddoppio su calcio di rigore di Çalhanoğlu, al 27esimo però la Lazio ha accorciato le distanze, calcio di rigore di Immobile, splendida la respinta di Donnarumma, che pallone che schizza sulla traversa, interviene Luis Alberto di testa e sigla il 2-1 biancoceleste, quindi il Milan avanti per 2-1 a San Siro sulla Lazio. Rapidamente gli altri risultati: Atalanta in vantaggio a Bologna per 2-0 con la doppietta di Muriel, una rete sul rigore, 0-0 a Napoli tra Napoli e Torino, Roma avanti sul Cagliari per 1-0, in questo caso il gol all'11esimo di Veretout, Ammarassi, Sampdoria 0, Sassuolo 1, Traoré il marcatore a al secondo minuto, derby ligure tra Spezia e Genoa, al momento sull'1-1, reti di Nzola, il pareggio del Grifone che è allenato per la prima volta da quest'anno da Ballardini, il gol ancora di Mattia Destro, Benevento in vantaggio a Udine per 1-0 col gol di Caprari. Grazie a Dario Ricci, con il quale torneremo a collegarci intorno alla fine di questo spazio. Io vi aggiorno anche sul Consiglio dei Ministri che ha approvato il mille proroghe. Ma dobbiamo fermarci per il traffico. Subito dopo torneremo a parlare dei numeri della pandemia e del piano vaccini. A tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21, 18 minuti e 22 secondi. Poco fa l'ANSA ha battuto una notizia che arriva dall'Argentina. La direzione delle migrazioni dell'Argentina ha annunciato oggi, fra le misure di contrasto di Covid-19, la sospensione dei voli da e per l'Italia, considerando il nostro paese a rischio quanto la Gran Bretagna. Io do il benvenuto a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Professore, voi ogni settimana ci aggiornate con il vostro studio sull'andamento della pandemia. In 7 giorni è diminuito il bacino degli attualmente positivi del 9% e la pressione sugli ospedali, con il calo dei ricoverati con sintomi dell'8% e anche delle terapie intensive del 10,5%. Tuttavia, il vostro studio sottolinea che gli effetti delle misure restrittive stanno sbiadendo, la frenata del contagio è sempre meno evidente. Che cosa bisogna fare? Ma guardi, sostanzialmente quello che ripetito con le sue parole confermano quanto da noi sottolineato oggi nel report che riguarda la settimana dal 16 al 22 dicembre. Noi, come sappiamo, abbiamo visto le zone colorate introdotte con il DPCM del 3 novembre ottenere determinate misure, in particolare è stata allentata la pressione sugli ospedali, si sono ridotti i nuovi casi, ma adesso questo effetto a poco si sta sbiadendo, diciamo, si è quasi azzerato. Quindi noi l'ultima settimana abbiamo praticamente documentato un numero di nuovi casi, quasi 107.000 rispetto ai 113 della settimana precedente, come ha ribadito anche oggi l'Istituto Superiore di Sanità, l'indice RT sta salendo e c'è una situazione un po' a macchia di leopardo tra le varie regioni, quindi il dato nazionale fa vedere questa stabilizzazione della curva, a livello di alcune regioni invece si cominciano a vedere già un incremento dei nuovi casi settimanali, quindi di fatto ecco quello che erano le misure introdotte con il sistema delle regioni a colori, praticamente possiamo dire che hanno già dato quello che è il loro risultato. Adesso, come abbiamo più volte ribadito, la stretta di Natale era indispensabile. Noi vedremo sicuramente per le prossime 2 settimane una stabilizzazione ulteriore, se non addirittura una risalita dei nuovi casi, e poi speriamo gli effetti, diciamo, restrittivi delle misure introdotte. Però questo è molto difficile riuscirla a stimare, perché se è vero che ci sarà un sostanziale divieto di circolazione pubblica, ci sarà una circolazione privata che è impossibile da verificare, quindi ci appelliamo sempre al buon senso degli italiani. Leggo dal vostro studio: in 6 regioni i casi sono tornati ad aumentare, viene citata la Basilicata, la Calabria, la Lombardia, le Marche, la Sardegna e la Val d'Aosta. Non viene citato il Veneto, che invece dal report dell'Istituto Superiore di Sanità di questa sera viene considerato a rischio con l'RT superiore a 1. Ma perché il Veneto sostanzialmente, rispetto all'incremento percentuale dei casi nel nostro ultimo monitoraggio, che è del 13%, praticamente il più alto d'Italia, è sceso rispetto alla settimana scorsa, ma di fatto è la regione che ha il numero maggiore dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 2.091, quindi in questo momento la situazione del Veneto è quella, diciamo, più dove la circolazione del virus è più sostenuta, seppur rispetto a quello che è l'incremento percentuale dei casi è un po' diminuito rispetto alla settimana precedente, ma rimane comunque il più alto d'Italia. Allora, ascoltiamo assieme un passo di quello che ha detto il ministro della Salute, Speranza, oggi. Il lavoro che sta per iniziare ha veramente una portata di rilievo storico, nel senso che sarà probabilmente la più grande campagna vaccinale mai vista a livello mondiale, a livello europeo e chiaramente anche nel nostro paese. E quindi contiamo sulle vostre energie, sulla vostra passione, sul vostro servizio. e io vi ringrazio sin da ora per il lavoro che avete fatto fin qui e soprattutto per il lavoro che ancora ci aspetta. Il ministro Speranza si riferiva alla campagna per i vaccini e ringraziava le regioni che però appunto hanno un gran lavoro davanti a loro. Presidente, la campagna sta per iniziare? Aspettiamo tutti questo 27 dicembre. Quanto inciderà sull'andamento della pandemia in Italia? Mi pare di capire che voi sottolineate che le 32 milioni di dosi del vaccino fino a giugno sono poche. Ma guardi, intanto bisogna precisare che il vaccino rappresenta un'arma in più per fronteggiare la pandemia e come è stato ribadito ieri in occasione della presentazione dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, del vaccino Pfizer, la vaccinazione individuale non potrà conferire alcuna patente di libertà, perché se noi non raggiungiamo un effetto massa, che ovviamente si riferisce all'immunità di gregge del 60-70% della popolazione vaccinata, è evidente che si è letto anche in questi giorni, non è possibile, vuol dire, allentare quelle che sono le altre tipologie di misure individuali. Noi l'analisi che abbiamo fatto nel comunicato di oggi riguarda quella che è la disponibilità di vaccini in relazione agli accordi che l'Italia ha fatto direttamente con le aziende o tramite la Commissione, tramite l'Europa, è quello che è lo status di avanzamento dell'approvazione dei vaccini, perché è chiaro che se un vaccino non è approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco non può essere di fatto distribuito. Quindi la nostra valutazione che cosa dice? Che noi abbiamo sostanzialmente poco più di 10 milioni di dosi entro marzo, che sono quelle che si riferiscono al vaccino Pfizer-BioNTech, che come sappiamo è stato approvato dall'EMA il 21 dicembre, e quelle di Moderna, che dovrebbero avere il via libera il prossimo 6 gennaio. E poi, se prendiamo il primo semestre, queste dosi arrivano sostanzialmente a quasi 23 milioni, che significa, considerando che servono due dosi per vaccinare una persona, a circa 11 milioni e mezzo di persone vaccinate. Poi ci sono gli altri vaccini di cui la Sanofi GSK, che ci aveva promesso, diciamo, dove aveva un preaccordo di 40 milioni di dosi, per un intoppo nella sperimentazione clinica, ha già spostato al primo semestre del 2022 la consegna. Il CureVac, che aveva 30 milioni di dosi, ha arruolato praticamente nella sperimentazione clinica di fase 3 il 14 dicembre il primo paziente, e poi ci sono quelli di AstraZeneca e Johnson & Johnson, che sono in fase di rolling review, cioè questa revisione che l'EMA fa sui cosiddetti dati periodici, ma ancora non hanno fatto nessuna submission della documentazione. Quindi è importante che venga tenuto d'occhio, diciamo, quello che è lo status di avanzamento delle sperimentazioni, perché altrimenti, delle relative approvazioni, perché altrimenti queste 202 milioni di dosi, voglio dire, che sono ovviamente sovrastimate rispetto al fabbisogno, però potrebbero arrivare nella seconda parte dell'anno, addirittura a fine 2021, e questo rappresenterebbe un elemento di criticità importante nella gestione complessiva della pandemia. Presidente, in pochissimi secondi mi dice un mese del 2021 in cui vedremo la luce in fondo al tunnel? Ma guardi, io credo che tutto dipenderà da quella che è la fornitura dei vaccini nel primo semestre. Se noi riusciremo a vaccinare il 30-40% della popolazione entro giugno, è ovvio che poi, approfittando del periodo estivo, la ripresa autunnale sarà sicuramente più in discesa. Se ci dovessero essere notevoli ritardi nella consegna dei vaccini in conseguenza della mancata approvazione, è ovvio che i tempi si spostano in avanti. Grazie. Grazie e buone feste. E noi parliamo proprio di feste, non sarà un cenone vero e proprio, ma ci siederemo a tavola con i nostri conviventi o al limite con un paio di persone al di fuori del nucleo familiare. E allora come ci dobbiamo comportare? Buonasera ad Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, professore di prevenzione ambientale alla Statale di Milano. Perché noi fra pochino ci siederemo a tavola domani sera, magari anche il 25 a pranzo, magari il 25 sera, qualcuno inviterà magari i nonni, qualcuno inviterà degli amici. Come ci dobbiamo comportare, professore? Innanzitutto buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Certo, sarà un Natale ristretto in famiglia. Se il nucleo familiare è quello che abitualmente convive, possiamo, diciamo, comportarci in maniera normale come in qualunque pranzo, in una qualunque cena fatta con i nostri conviventi, quindi senza particolari precauzioni. Se abbiamo degli ospiti che siano amici o che siano magari dei nonni più anziani, magari qualche minima accortezza in più dobbiamo averla, come per esempio quella di non toccare i piatti cibi e cercare di diciamo servirsi dal piatto di portata senza farli girare all'interno della tavolata, ma semplicemente per una precauzione nei confronti del soggetto più fragile come può essere un nonno, e laddove ci fosse una qualunque altra forma di patologia in corso, cercare di mantenere con loro, seppur all'interno della stessa tavolata, un distanziamento corretto. E questo è, diciamo, la base per seguire le regole, per prevenire al massimo questa epidemia da Covid. Poi per tutte le feste, a prescindere da questo periodo sfortunato con questo virus, l'ideale è non fare un eccessivo uso di candele profumate, di incensi profumati, perché provocano nell'aria dispersione di sostanze che possono essere tossiconocive, quindi arieggiare l'ambiente sempre prima e dopo aver cucinato, e se si dovesse decidere di utilizzare anche questo, magari più per il Capodanno, fuochi d'artificio piuttosto che stelline, piuttosto che fontane, ecco, un minimo di precauzione per evitare un principio di incendio domestico, e ricordarsi sempre che questi giochi, queste cose emettono delle sostanze che sono molto tossiche, soprattutto metalli pesanti, ma non solo, e quindi tenere l'ambiente arieggiato o cercare di farlo all'esterno, rivolti verso una finestra. Quindi sicuramente il tempo di permanenza nella stanza tutti assieme, la ventilazione, come sì, lei diceva, il ricambio d'aria. È importante, certo. E poi anche le conversazioni, il tono della voce può influire. Beh, sì, insomma, però con la distanza. Niente canti di Natale abbiamo, dei bambini, insomma, quest'anno. Sì, però ecco, tenga presente che all'interno di un ambiente abbastanza ristretto, come può essere quello di una tavolata tra parenti e pochi amici, le distanze sono talmente brevi che non c'è grande differenza tra il parlare e il cantare, ecco, nell'emissione di droplet. Per cui se i bambini vorranno fare all'interno dello stesso nucleo familiare, ovviamente, un canto di Natale per i genitori e per i nonni, magari li mettiamo a qualche metro in più di distanza, però insomma la capacità di queste goccioline di raggiungere uno stato di saturazione può avvenire anche semplicemente con il respiro. Quindi un ricambio d'aria, insomma, considerato anche il freddo invernale, ma vediamo di farlo ogni tanto, ma se siamo, ripeto, all'interno dello stesso nucleo familiare con il quale noi conviviamo, siamo già abbastanza sicuri e tranquilli. Laddove dovessero venire persone che sono amici ma che non conosciamo, possiamo sempre suggerire loro magari di fare un tampone rapido prima di venire i nostri ospiti. E l'utilizzo delle mascherine, chiaramente. L'utilizzo della mascherina, che però ovviamente quando uno mangia non può utilizzare, e quindi io dico che se abbiamo fatto un tampone rapido piuttosto che un altro test rapido di tipo sierologico, siamo abbastanza tranquilli, li terremo a una parte del tavolo più distante rispetto a dove si trova il nucleo familiare che abitualmente vive quella casa. Grazie ad Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Grazie a voi e auguri di buon Natale, di buone feste anche alla redazione e ai vostri ascoltatori. Grazie presidente. E noi ci fermiamo per il meteo, per capire come andrà i prossimi giorni. Tra l'altro è previsto molto freddo, quindi far cambiare l'aria sarà un po' difficile, ma bisognerà farlo. Ci fermiamo, poi andiamo a parlare invece dei pacchi che stanno attraversando un po' tutta Italia. È una nuova usanza incentivata da questa situazione. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bentornati a Effetto Notte, ci scrive un ascoltatore facendoci gli auguri. Henry chiede se è l'ultima puntata della trasmissione per il 2020. Sì, lo è. Torna il 7 di gennaio con la Giordano? Sì, con Roberta Giordano. Tornerà il 7 di gennaio. Quindi questa è l'ultima puntata per quest'anno. Un anno in cui mai come in queste festività gli italiani, e non solo, hanno comprato i regali anche online. E questo ha innescato un gran lavoro per la logistica, la cosiddetta logistica dell'ultimo miglio, cioè i trasporti, la consegna dei pacchi. Allora facciamo il punto stasera su questo fenomeno. Andrea Ferro, buonasera. Buonasera Valentina, buonasera a tutti gli ascoltatori. Qual è la situazione, Andrea? Quali le soluzioni alternative alla consegna a domicilio? E poi ci sono ritardi, ci sono ingorghi? Sì, insomma, è una questione piuttosto complessa, una questione centrale, come ti dicevi te, in questo Natale molto particolare. In tanti abbiamo fatto gli auguri e abbiamo fatto i regali con qualcosa online, ed effettivamente questa è una situazione che ha determinato, come dicevi, una serie di problemi per la logistica. Ma per inquadrare il fenomeno io ti fornirei giusto qualche dato per appunto dare una fotografia statistica di quello di cui stiamo parlando. Allora, nel 2020 il valore degli acquisti online, pensate, arriverà a quota 23 miliardi di euro, con una crescita intorno al 25% rispetto al 2019. Rispetto al 2019 parliamo di circa 4,7 miliardi in più. Gli italiani che acquistano online sono circa 29 milioni e 2 milioni quelli che si sono avvicinati all'e-commerce negli ultimi 10 mesi, chiaramente in seguito all'emergenza pandemica, al lockdown, alla chiusura dei negozi, eccetera. Cosa significa per la logistica? Beh, lo capiamo tutti i giorni nelle nostre città, questo via vai irrefrenabile di furgoni, queste consegne ad ogni ora praticamente del giorno. Significa quindi un lavoro per quanto riguarda questo Natale, è una stima molto approssimativa perché chiaramente le consegne sono ancora in corso, ma secondo questa stima possiamo parlare di circa il 20-25% in più di consegne rispetto al Natale scorso, considerando che a Natale i Corrieri Espresso consegnano già normalmente il 35-40% in più rispetto agli altri mesi, e quindi questo disegna statisticamente l'intensità, la mole di lavoro. E pensate, la logistica urbana nel suo complesso vale circa il 30% complessivo dei flussi di merci movimentate. Corriere Espresso lamentano difficoltà organizzative, c'è più lavoro, dicono, ma ci sono meno ricavi. Dicevi prima alternative alla consegna a domicilio. Beh, lo stiamo usando come metodo, come soluzione alternativa, la possibilità di avere il pacco, la consegna non direttamente a casa, ma magari in un negozio vicino a casa. Chiaramente lo indichiamo nel momento in cui facciamo l'ordine, e questo sta diventando una modalità abbastanza seguita. E poi ci sono i parcel lockers, e questa invece in Italia siamo un po' indietro rispetto a quello che accade. Abbiamo un problema con il collegamento, chiaramente, con Andrea Ferro che ci stava raccontando questa facciata delle nostri pacchi e regali consegnati attraverso l'e-commerce. Forse riusciamo a recuperare Andrea Ferro. Un altro tema importante che in qualche maniera è tangenziale a questo è quello dell'ambiente, no? del trasporto delle merci e del traffico delle città. Andrea, ti abbiamo recuperato. Sì, chiedo scusa, c'è stato un problema sui collegamenti, c'è traffico anche sulle linee. C'è traffico sulle linee. Dicevi a proposito della questione della sostenibilità di questa mole di lavoro, di questo intenso flusso di veicoli. Sì, questo è un grosso problema, un problema ben presente agli operatori della logistica, ben presente agli amministratori pubblici, agli amministratori locali, che devono in qualche modo regolare, normare questa circolazione, ripeto, in netto aumento di anno in anno. E ci sono stati già dei protocolli tra alcuni comuni e le organizzazioni dei Corrieri Espresso, protocolli sostanzialmente per incentivare pratiche più sostenibili. Una di queste è l'utilizzo di mezzi, diciamo così, più virtuosi ecologicamente, cioè con motorizzazioni alternative oppure con motorizzazioni diciamo dell'ultima generazione tipo gli Euro 6. L'incentivo funziona sostanzialmente in questa maniera: se tu fai le consegne con mezzi appunto ecologicamente più virtuosi, io ti do la possibilità di avere delle deroghe rispetto ai tempi previsti dalle zone a traffico limitato. Insomma, io ti vengo incontro e tu vieni incontro a me. Questa è una questione che peraltro non riguarda solo la logistica dell'ultimo miglio, ma riguarda in generale tutta la logistica, l'inquinamento prodotto dai trasporti, che peraltro poi è meno rispetto ad altre fonti di inquinamento, però chiaramente riguarda anche il flusso dei mezzi pesanti. Anche qui, da parte delle organizzazioni di categoria, si dice, se ci dicono sostanzialmente, se ci date gli incentivi rinnoviamo le flotte, e questo vuol dire che mettiamo in circolazione mezzi ecologicamente con meno ricadute sull'ambiente. Considera l'ultimo dato, visto che te ne ho dato un po' di numeri stasera e li do a prescindere dal mio lavoro, l'ultimo dato riguarda l'anzianità media dei mezzi pesanti. In Italia sfiora i 14 anni, significa che abbiamo il parco mezzi più anziano d'Europa, e questa non è una bella cosa. Bisogna rimediare in fretta con mezzi ecologici, Euro 6, oppure addirittura con alimentazioni alternative. C'è il GNL, il gas naturale liquefatto, e c'è anche all'orizzonte l'idrogeno. Si parla di poco tempo per vedere i primi camion ad idrogeno in circolazione sulle nostre strade ed autostrade. Va grazie ad Andrea Ferro, grazie, benissimo. Auguri a tutti. Auguri anche a te. E noi rimaniamo in temi legati al Natale, ma non solo, cogliamo l'occasione per parlarne oggi, perché appunto è Natale, perché una settimana fa ha colpito molto sia chi frequenta i social, chi legge i giornali, questa lunghissima fila davanti alla struttura milanese dell'associazione Pane Quotidiano, che a Milano distribuisce generi alimentari a chi ne ha bisogno. Io do il benvenuto al vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus, Luigi Rossi. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Dicevo, è una ovviamente un collegamento che abbiamo fatto perché vorremmo capire che Natale sarà anche per queste persone, però non vorremmo fermarci a questo. Insomma, queste persone vivono e sopravvivono tutto l'anno, e so che c'è stato un aumento nel 2020 rispetto a un anno fa, consistente, delle persone che sono in fila davanti alle vostre due sedi a Milano, no? Sì, esattamente, c'è stato un aumento di persone, ma quello che ci ha più meravigliato è che stiamo annoverando volti nuovi, e quindi stiamo annoverando volti nuovi di cittadini italiani e con età un po' più giovane rispetto ai soliti anziani che con la pensione non arrivano a fine mese. Quindi stiamo di quanto è aumentato il numero di persone che si rivolgono a voi? Ma in realtà è aumentato circa un 10-15%, non è aumentato in modo consistente, ma la cosa che ci fa pensare è la cosa, insomma, che evidentemente non ci fa ben presagire, è il fatto di aver annoverato volti nuovi, quindi persone più giovani e persone che vengono anche con bambini. Perché sono in difficoltà queste persone? In quale categoria le possiamo inserire? Persone che hanno perso il lavoro, padri separati, famiglie in difficoltà? Qual è la categoria che è cresciuta di più? Ma guardi, noi non facciamo praticamente delle statistiche, ma semplicemente perché non ci vogliono delle tessere particolari per poter venire a Pane Quotidiano, né essere autorizzati per venire a Pane Quotidiano. Ma che impressione avete? Ma l'impressione che noi abbiamo è effettivamente che siano persone che evidentemente hanno perso il posto di lavoro, o persone che magari sono dei cassi integrati, che già prima con uno stipendio pieno faticavano ad arrivare alla fine del mese, ecco che con uno stipendio da cassa integrato evidentemente a fine mese non ci arrivano più. La fila che era apparsa sui social e poi sui giornali era una fila lunghissima di persone anziane, di persone giovani, immigrati, italiani, anche bambini, come lei diceva. Era una fila, una giornata particolare quella, oppure è consueta questa fila davanti alla vostra sede? Beh, questa fila è consueta, probabilmente sarà stata una giornata eccezionale, ci saranno state probabilmente un 100-120 persone in più. Però evidentemente questa fila c'è tutti i giorni a Pane Quotidiano. Ricordando che sono tantissime le associazioni, le realtà che si occupano di bisognosi, dall'Opera di San Francesco alla Comunità di Sant'Egidio alla Caritas, quindi non solo Pane Quotidiano. Certo. Volevo capire da lei che cosa si può fare di concreto, e non solo a Natale chiaramente. Ma quello che si può fare di concreto è cercare chiaramente di poter assistere anche le persone che possono essere il nostro vicino di casa. Si potrebbe cercare di comunque avere più spirito di solidarietà nei confronti delle persone e cercare chiaramente di intervenire e stare a fianco di chi ha bisogno, di queste persone che sono state meno fortunate. Per cui, per esempio, il fatto di poter fare attività di volontariato, il fatto di poter condividere magari anche con queste persone il fatto di poter fare delle spese, poter consegnare degli alimenti a queste persone in modo tale che si possano alleviare le loro sofferenze. Grazie a Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori per avermi ascoltato. Noi ci fermiamo per il traffico, torniamo con voi subito dopo e parliamo di spettacoli. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo? Disponiamo di un tempo limitato sulla Terra. Vuoi diventare la persona che eri destinato ad essere? Non perdere tempo a vivere una vita inutile. Ma che sto facendo? Sfrutta ogni prezioso istante della tua vita e libera la tua vera essenza. E questo è Soul, tra i film di animazione più attesi dell'anno, ma gli appassionati della Disney dovranno rinunciare a vederlo sul grande schermo. Buonasera Marta Cagnola. Buonasera, dai, diciamo così Valentina, o dovranno rinunciare a vederlo sul grande schermo oppure avranno la fortuna, la possibilità di vederlo ugualmente anche se i cinema sono chiusi. Beh, insomma, sono le due facce della stessa medaglia. E tra l'altro senza costi aggiuntivi. Allora, diciamola tutta, doveva essere il film del grande rilancio delle sale cinematografiche, che quest'anno avevano avuto moltissimi mesi di chiusura, doveva essere il grande film Disney sul quale i gestori dei cinema avevano puntato. Invece ovviamente le difficoltà sono tante, è stato annunciato poco prima della festa del cinema di Roma, dove era stato il film di apertura, Disney ha deciso di mettere, di pubblicare il film dappertutto, non nelle sale, ma nella piattaforma Disney Plus, che è appunto la piattaforma streaming della Disney. Quindi esce il 25 dicembre, cioè dopodomani, proprio a Natale, questo film che è piaciuto molto alla festa del cinema di Roma. Dai, è un classicone Pixar, di quelli che ci fanno sorridere e commuovere. Che tu hai visto alla Festival del Cinema di Roma? L'ho visto e lo rivedrò volentieri, è una storia molto carina, è la storia di un insegnante di musica a scuola che sogna di essere un grande jazzista, Joe. Un incidente fa sì che la sua anima venga separata dal corpo, ma non finisce all'inferno, non finisce in paradiso, ma finisce in una sorta di mondo intermedio in cui stanno le anime che non sono ancora state trasferite in un bambino appena nato. Ci sarà molto tempo, Marta, per stare a casa, pare, e per appassionarci a qualche serie che non abbiamo visto, magari che abbiamo perso nei mesi scorsi, oppure qualcosa che esce adesso. Consigliaci. Allora, ci sono un sacco di film da vedere, di serie da vedere a seconda della piattaforma che ognuno ha, e diciamo che quest'anno in tanti ci siamo abbonati a una piattaforma o l'altra. Partendo con Netflix, le punte di diamante non sono delle storie natalizie, perché abbiamo ad esempio Bridgerton, che è una serie in costume prodotta da Shonda Rhimes, una delle creatrici di serie più importanti in America, Bridgerton da Natale. Invece è uscito oggi Midnight Sky, che è il film di Netflix con George Clooney. Quindi è una fantascienza molto particolare, uno scienziato molto umano con delle traversie, insomma oggi è il giorno di George Clooney. Però ci sono anche tutti i filmoni di Natale e quindi ci sono tantissime storie che ci raccontano appunto, che sono quelle perfette insomma per le feste di Natale. C'è Jingle Jungle, c'è insomma tutte queste che ci vengono suggerite dall'algoritmo appena accendiamo Netflix. Chi avesse invece ad esempio Amazon Prime Video, sì, a Sylvie's Love, che è una commedia romantica ambientata negli anni 50 con protagonisti black, anche questa molto attesa, esce il giorno di Natale. Ma un'altra cosa molto carina su Amazon per tutte noi signore, soprattutto che stiamo su chiuse in casa e vogliamo i film romantici, ci saranno sulla piattaforma Amazon Prime Video un sacco di film. Non so se hai presente quella rete americana che si chiama Hallmark e che quindi ha tutti quei film super romantici, così insomma, ecco, da non perdere. Per quanto riguarda invece Apple, allora Apple ha il film, uno specialone di Mariah Carey, e quindi siamo a posto con la musica di Natale. Sì. Invece Sky ha il film di Natale dei Moschettieri, il nuovo capitolo dei Moschettieri, Papaleo, Favino e Mastandrea, da Natale su Sky e su Now TV. Anche questo, niente cinema, ma piattaforma e rete italiana. Marta, il mondo dello spettacolo da mesi soffre. Quando torneremo ai concerti, alle sale cinematografiche? E ci sono dei progetti che sono stati messi in piedi dagli personaggi dello spettacolo per cercare di riportare l'attenzione, no, su questa categoria, anche le maestranze soprattutto, non soltanto i grandi artisti. Guarda, è stato un anno tremendo, ci sono state tantissime iniziative anche proprio dal basso per far capire che il mondo dello spettacolo è un mondo di lavoratori, perché in tanti pensano che insomma gli artisti siano tutti ricconi che nelle loro ville possano permettersi di non lavorare per intere annate, invece il mondo dello spettacolo è un mondo che impiega tantissimi lavoratori. Tante proteste, tante manifestazioni per far sentire la propria voce, ad esempio come quella dei bauli in piazza. L'ultima iniziativa è una campagna istituzionale invece che è partita dall'ANICA, che è l'associazione che unisce le industrie cinematografiche. L'hashtag è Solo al Cinema. Bisogna ricordarsi, seguiamo anche questa campagna, ricordarsi quanto era bello andare a vedere i film solo al cinema. Grazie a Marta Cagnola. grazie Valentina, presto, auguri a tutti. Ci colleghiamo nuovamente con Dario Ricci per vedere cosa sta succedendo sui campi di calcio. Buonasera ancora Dario. Buonasera, e ricordando anche che speriamo poi di vedere anche il ritorno del pubblico nei nostri stadi. Per fortuna però almeno si riesce a giocare in relativa sicurezza. 14esima di Serie A, l'ultima del 2020, secondi tempi che sono ricominciati da qualche minuto su tutti i campi. Ricordo intanto il successo a Verona dell'Inter per 2-1, ma il Milan difende il primo posto in classifica attualmente, perché al 47esimo i rossoneri sono in vantaggio per 2-1 sulla Lazio a San Siro. Le reti al decimo di Rebic, al 17esimo il calcio di rigore di Cialanoglu, al ventisettesimo il colpo di testa di Luis Alberto su rigore di Immobile, respinto da Donnarumma. Atalanta avanti 2-0 a Bologna, al 53esimo decide sempre la doppietta di Muriel, un gol su rigore. 0-0 tra Napoli e Torino. Roma avanti sul Cagliari per 1-0 all'Olimpico, il gol decisivo finora quello di Veretout all'11esimo, mentre la rete di Traoré al secondo minuto a griffare finora il vantaggio del Sassuolo. A Marassi sulla Sampdoria, 1-0 anche del Benevento a Udine, in questo caso il marcatore al nono minuto Caprari, e 1-1 finora nel derby ligure tra Spezia e Genoa, alla rete per lo Spezia di Nzola ha risposto per il grifone Mattia Destro. Grazie a Dario Ricci. Prima di chiudere, due notizie al volo battute dalle agenzie. Ci sono state enormi concessioni da parte della Gran Bretagna nella trattativa sulla Brexit, lo rendono note fonti francesi, e poi schiaffo di Trump al Congresso ha posto il veto sulla legge sulla difesa. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto e vi ringrazio in regia per il lavoro Valeria Bernardi, in assistenza Alessandro Longoni, in redazione Alessandro Schirano. Questo è l'ultimo appuntamento per il 2020 con Effetto Notte. La trasmissione torna il 7 di gennaio con Roberta Giordano. Da Valentina Furlanetto è tutto, vi auguro un buon Natale, buone feste e un ottimo 2021.